Il terzo anello ad alta voce, Per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Ora, nella notte, Robert Jordan era disteso e aspettava che arrivasse la ragazza. Non c'era vento ora e i pini erano immobili nella notte. I tronchi dei pini si staccavano sulla neve che copriva il suolo ed egli era disteso dentro il sacco a pelo, sentendo la morbidezza del letto che si era fatto, le gambe lunghe distese dentro il sacco caldo, l'aria pungente e fredda sulla testa e nelle narici quando respirava. Si girò su un fianco e si mise a sorvegliare l'ingresso della caverna alla luce delle stelle riflesse dalla neve. Qualcuno scivolò di sotto la coperta ed egli poté vedere, chiunque fosse, una figura ritta nella breccia tra le rocce che formava l'ingresso. Sentì quindi un rumore frusciante nella neve e poi, chiunque fosse quella figura, si curvò e rientrò nella caverna. «Immagino che non verrà finché tutti non saranno addormentati», pensò. «È uno spreco di tempo, la notte è per metà passata. Oh, Maria, vieni ora, subito, Maria, perché abbiamo poco tempo». Improvvisamente fu preso dal panico che lei non venisse. Il vento che si alzava gli fece pensare che presto sarebbe stata mattina. Altra neve cadde dai rami mentre egli sentiva il vento scuotere le cime dei pini. «Vieni ora, Maria, vieni qui subito, te ne prego», pensò. «Oh, vieni qui ora, non aspettare, non importa più che tu aspetti che loro siano addormentati». Quindi la vide uscire da sotto la coperta che copriva la imbucatura della caverna. Rimase lì, fermo, un momento, e lui sapeva che era lei, ma non poteva vedere che cosa stesse facendo. Fischiò in tono basso e lei stava ancora all'imboccatura della caverna facendo qualcosa nell'ombra nera della roccia. Quindi venne di corsa, portando qualcosa in mano. Si inginocchiò vicino al sacco, premendo forte la testa contro di lui e battendosi via la neve dai piedi. Lo baciò e gli porse il suo fagotto. «Mettilo col tuo guanciale», disse. «Mi sono tolta questa roba per risparmiare tempo. Sei venuta scalza sulla neve?» «Sì», disse Maria. «Ho addosso solo la camicia di nozze». Egli la stringeva forte fra le braccia e lei gli strofinava la testa contro il mento. «Mettimi la mano sulla testa», disse lei, «e vediamo se so baciarti». «Andava bene?» domandò. «Sì, levati la camicia di nozze». «Credi che debba farlo?» «Sì, se non sentirai freddo». «Che va, freddo? Brucio tutta, anch'io». «Ma dopo avrai freddo?» «No, dopo saremo come un unico animale dei boschi e così stretti che nessuno potrà dire chi di noi è l'uno e chi l'altro. Non senti come il mio cuore è il tuo cuore?» «Sì, non c'è differenza. Ora senti, io sono te e tu me, e uno e l'altro. E io ti amo. Oh, ti amo tanto. Non siamo in realtà una sola cosa. Non lo senti anche tu?» «Sì, è vero, Maria. Sì, Maria. Oh sì, te ne prego, non hai freddo? Oh no, tirati il sacco sulle spalle. Maria, non posso parlare. Oh Maria, Maria». Dopo, stretti, con la notte fredda fuori e nel lungo tepore del sacco, la testa a contatto della guancia di lui, lei gli giacque tranquilla e felice. E a un tratto disse piano: «E tu? Come e tu?» «Sì», disse lei, «ma non è stato come oggi dopo pranzo». «No, ma mi è piaciuto di più. Non c'è bisogno di morire». «Addormentiamoci», disse egli, e sentì contro di sé il corpo lungo, leggero, che lo confortava e aboliva la solitudine magicamente con un semplice tocco dei fianchi, delle spalle e dei piedi, che faceva con lui un'alleanza contro la morte, e disse: «Dormi bene, mio lungo coniglietto». Maria disse: «Sono già addormentata». «Io mi sto addormentando», disse egli. «Dormi bene, diletta». E si addormentò felice. Ma durante la notte si svegliò e la strinse forte, come se lei fosse tutta la vita e gliela volessero portar via. La strinse sentendo che lei era tutta la vita che poteva esserci per lui, ed era vero. Ma lei dormiva profondamente e non si svegliò. Allora egli si piegò su un fianco e le tirò il sacco sopra la testa e la baciò una volta sul collo e quindi tirò su il cinturino della pistola e si mise la pistola a lato per averla subito a portata di mano e poi rimase lì, disteso, nella notte, pensando. Un vento caldo si levò sul far del giorno ed egli sentì la neve sciogliersi sugli alberi e cadere con tonfi sordi. Era un mattino di primavera inoltrata. Avvertì fin dalla prima boccata d'aria che respirò che la neve era stata soltanto una tempesta passeggera sulle montagne e sarebbe sparita per mezzogiorno. Sentì quindi l'avvicinarsi di un cavallo, gli zoccoli fasciati dalla neve bagnata e risuonavano sordamente mentre il cavaliere trottava. Sentì il rumore del fodero di una carabina che batteva e lo scricchiolio del cuoio. «Maria!» disse e scosse la ragazza per una spalla per svegliarla. «Ficcati sotto!» E si abbottonò la camicia con una mano e con l'altra impugnò la pistola automatica togliendola sicura col pollice. Vide la testa dai capelli corti della ragazza sparire con uno scatto dentro il sacco e vide il cavaliere che veniva avanti tra gli alberi. Si accovacciò nel sacco e, tenendo la pistola con tutte e due le mani, prese di mira l'uomo che veniva verso di lui. Non lo aveva mai visto prima di allora. Il cavaliere era quasi di fronte a lui. Cavalcava un grosso cavallo grigio e portava un berretto a cachi e una coperta mantello simile a un poncio e dei pesanti stivali neri. Dal fodero sulla destra della sella veniva fuori l'impugnatura e la cartucciera oblunga di un piccolo fucile automatico. Aveva la faccia giovane, dura, e in quel momento vide Robert Jordan. Portò la mano in basso verso il fodero e mentre così si piegava Robert Jordan vide il rosso emblema che portava a sinistra del petto sul mantello khaki. Mirando al centro del petto, un po' più in basso dell'emblema, Robert Jordan sparò. Il colpo di pistola rimbombò per i boschi nevosi. Il cavallo balzò in avanti come se fosse stato spronato e il giovane, piegato ancora verso il fodero, scivolò a terra, il piede destro impigliato nella staffa. Il cavallo fuggì attraverso gli alberi, trascinandolo, facendolo sobbalzare faccia a terra, e Robert Jordan rimase ritto con la pistola in pugno. «Va a prendere quel cavallo!» ordinò a Primitivo, che s'era diretto verso di lui, quindi domandò: «Chi era di guardia sulla cima?» «Raphael», disse Pilar dalla caverna. Stava lì con i capelli che ancora le scendevano dietro le spalle in due trecce. «C'è la cavalleria in giro», disse Robert Jordan. «Portatela su quel vostro maledetto fucile!» Sentì Pilar chiamare Agustin nella caverna. Poi lei entrò nella caverna e quindi due uomini ne vennero fuori correndo, uno col fucile mitragliatore col treppiedi gettato sulle spalle, l'altro con un sacco di caricatori. «Va lassù con loro!» disse Robert Jordan ad Anselmo. «Mettiti disteso accanto al fucile e tieni fermo il treppiede», disse. Inginocchiandosi per infilarsi le scarpe, Robert Jordan sentì contro le ginocchia Maria, che si stava vestendo dentro il sacco. Lei non aveva posto nella sua vita, ora. Quell'uomo a cavallo non si aspettava di trovare niente, pensava Robert Jordan. Non stava seguendo orme di cavalli e non era neppure normalmente guardingo, tantomeno allarmato. Non stava seguendo neppure le tracce che portavano al posto di vedetta. Doveva essere uno di una pattuglia sparsa su quelle montagne. Ma quando la pattuglia si accorgerà della sua mancanza, ne seguirà le tracce fin qui. A meno che la neve non si sciolga prima, pensò. A meno che qualcosa non accada alla pattuglia. «Fareste meglio ad andare là sotto», disse a Pablo. Adesso erano tutti fuori dalla caverna e stavano lì, con le carabine, con le granate alla cintura. Pilar porse una sacca di pelle piena di granate a Robert Jordan ed egli ne prese tre e se le mise in tasca. Uscì dalla caverna e disse a Pablo: «Io vado su. È capace Agustin di sparare con quel fucile?» «Sì», disse Pablo. Stava osservando Primitivo che portava su il cavallo. «Mira che cavallo!» disse. «Guarda che cavallo!» Il grosso grigio sudava e tremava un poco e Robert Jordan gli batté affettuosamente sulla criniera. «Lo metterò con gli altri!» disse Pablo. «No!» disse Robert Jordan. «Ha lasciato delle tracce fin qui. Bisogna che ne lasci nel senso opposto.» «È vero!» riconobbe Pablo. «Lo porterò via e lo nasconderò e lo riporterò quando la neve sarà sciolta.» «Tu hai molta testa oggi, Inglese. Andrés, tu sella i cavalli e tienili pronti. Se senti sparare, portali su per il bosco dietro la breccia. Vieni con le tue armi e lascia i cavalli alle donne. Fernando, guarda che anche i miei sacchi vengano portati, soprattutto che i miei sacchi vengano portati con cura.» Disse a Pilar: «Tu devi accettarti che vengano con i cavalli. Vamonos», disse. «Andiamo.» «La Maria e io prepareremo tutto per la partenza», disse Pilar. Quindi a Robert Jordan: «Guardalo!» e indicò Pablo. Cavalcava il grigio senza sella e le narici del cavallo si allargavano mentre Pablo rimetteva a posto il caricatore nel fucile automatico. Robert Jordan guardò indietro e vide Maria che stava ora vicino a Pilar. Quindi lei venne correndo per il sentiero e gli fece passare avanti Primitivo per parlarle. «Tu», disse lei, «posso venire con te?» «No, aiuta Pilar.» «Baciami se vai via.» «Sei senza vergogna», le disse. «Sì», disse lei, «assolutamente. Ora torna indietro, c'è molto da fare. Può darsi che si debba combattere qui, se seguono queste tracce di cavallo.» «Tu hai visto quello che portava sul petto?» «Sì, perché no?» «Era il Sacro Cuore.» «Sì, tutti quelli della Navarra lo portano.» «E tu hai mirato lì?» «No, al di sotto. Torna indietro ora.» Egli la guardò e vide che aveva le lacrime agli occhi. Lei gli gettò le braccia al collo e lo baciò. «Vado», disse. «Me voi, vado.» Egli si volse e la vide lì, ferma, con il sole del mattino sulla faccia bruna e sui capelli corti, fulvi, di un oro bruciato. Maria agitò il pugno, poi si voltò e scese per il sentiero a testa bassa. Thank you. «Tagliami dei rami di pino», disse Robert Jordan a Primitivo, «e portali qui subito». «Non mi piace il fucile lì», disse poi ad Agustin. «Perché?» «Mettilo là», indicò Robert Jordan, «e poi te lo dirò. Ecco qui, così, lascia che ti aiuti. Ecco, qui», disse e si acquattò a terra. Guardò attraverso il settore di tiro, osservando l'altezza delle rocce da ambo i lati. «Deve stare più lontano», disse, «un po' più lontano». «Bene, qui. Così può andare, finché non sia possibile sistemarlo a dovere. Là metti le pietre. Ecco, là. Eccone una. Mettine un'altra da questo lato. E lascia lo spazio perché la canna possa girare. La pietra deve essere più lontana, da questo lato, Anselmo. Tu scendi alla caverna e portami un'ascia, presto. Vedi? Di lì non serviva niente», disse Robert Jordan. «Guarda, quelle rocce che dovrebbero proteggervi ai fianchi coprono coloro che vi attaccheranno. Con un fucile di questo genere dovete cercare un luogo pianeggiante su cui sparare. Dovete anche cercare di prenderli di lato. Vedi? Guarda ora. Ecco, tutto il campo è dominato dal fuoco». «Vedo», disse Agustin. «Ma noi non abbiamo mai dovuto difenderci, tranne quando fu presa la nostra città, quella volta del treno. C'erano i soldati con la macchina». «Allora impareremo tutti insieme», disse Robert Jordan. «Ci sono alcune cose da osservare. Dov'è lo zingaro, che dovrebbe star qui? Non lo so, ma dove potrà essere? Non lo so». Pablo aveva cavalcato attraverso il passo e quindi si era voltato e aveva descritto un circolo sullo spiazzo posto in cima che era il campo di tiro del fucile automatico. Robert Jordan lo osservò scendere per il pendio lungo le tracce che il cavallo aveva lasciato arrivando. Sparì tra gli alberi voltando a sinistra. «Spero che non vada dritto in bocca alla cavalleria», pensò Robert Jordan. «Ho paura che ce lo ritroveremo qui tra i piedi». Primitivo portò i rami di pino e Robert Jordan li piantò attraverso la neve nel terreno non gelato, curvandoli ad arco sul fucile da ambo i lati. Ora che il sole era alto e soffiava un vento caldo, si stava bene dalla parte delle rocce su cui cadeva il sole. «Quattro cavalli», pensò Robert Jordan. «Le due donne e io, Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin, come diavolo è il nome dell'altro fratello, fa otto, senza contare lo zingaro, fa nove, più Pablo, che è andato via con un cavallo, fa dieci, e Andrés si chiama l'altro fratello, più l'altro Eladio, fa undici, neppure mezzo cavallo a testa. Tre uomini posso tenere l'arma e quattro andar via, cinque con Pablo, ce ne rimangono due, tre con Eladio. Dove diavolo si è cacciato? Dio sa che ne sarà di El Sordo oggi, se quelli trovano le tracce di quei cavalli nella neve. È duro che la neve abbia smesso così di colpo, ma sciogliendosi oggi riporterà le cose a posto, ma non per El Sordo. Se arriviamo domani senza dover combattere, possiamo dare l'intero spettacolo domani. Dio ci aiuti se dobbiamo combattere oggi. Questo posto vale quanto qualunque altro, e se le cose si mettono al peggio, ci sono tre vie di scampo da qui. Poi verrà il buio, e dovunque ci si trovi, in queste montagne, posso arrivare al ponte e farlo saltare di giorno. Ah, non so perché me ne sono preoccupato tanto prima. Adesso sembra abbastanza facile. Spero che questa volta almeno facciano levare in tempo l'aviazione. Lo spero davvero, perché domani sarà una giornata con la polvere sulla strada. Proprio allora, mentre sorvegliava tutta la zona visibile, vide arrivare lo zingaro tra le rocce da sinistra. Camminava con un'andatura sciolta, disarticolata, ondulata, la carabina gettata sul dorso, la faccia bruna sogghignante, e portava due grosse lepri, una per mano. Le portava per le zampe con la testa penzoloni. «Hola, Roberto!» chiamò lo zingaro allegramente. Robert Jordan si mise la mano sulla bocca e lo zingaro sembrò sorpreso. Scivolò dietro le rocce fin dove Robert Jordan stava acquattato, fino al fucile mitragliatore protetto dalle frasche. Si acquattò anche lui e posò le lepri nella neve. Robert Jordan lo guardava. «Hijo de una gran puta!» disse sottovoce. «Dove diavolo sei stato?» «Le ho seguite!» disse lo zingaro. «Le ho prese tutte e due, avevano fatto l'amore sulla neve. È il tuo posto di vedetta. Ho fatto presto, bisbigliò lo zingaro. Che succede? C'è allarme? C'è la cavalleria in giro? Li hai visti? Ce n'è uno all'accampamento ora, disse Robert Jordan. È venuto per la colazione. Mi era sembrato di aver sentito uno sparo o qualcosa di simile, disse lo zingaro. Me cago in la leccia. È passato di qui. Di qui, per il tuo posto di guardia. Ahi, mi madre, disse lo zingaro. Sono un povero disgraziato. Porta le tue lepre alla caverna, riportaci qualcosa per la colazione. Lo zingaro raccolse le due lepri e si ritirò scivolando lungo le rocce, e Robert Jordan guardò per la radura e i pendii sottostanti. Due corvi volarono in cerchio sulle loro teste e quindi si posarono su un pino più in basso. Un altro corvo li raggiunse e Robert Jordan, osservandoli, pensò: «Quelli sono le mie sentinelle. Finché stanno tranquilli vuol dire che nessuno viene tra gli alberi». Agostino e Primitivo arrivarono con le frasche e Robert Jordan fece un buon mascheramento per il fucile mitragliatore, un mascheramento che nascondesse il fucile alla vista dall'alto e apparisse naturale visto dal bosco. Indicò loro dove mettere un uomo sulle rocce a destra, in modo da poter vedere tutta la zona al di sotto e sulla destra, e dove metterne un altro, in modo che dominasse l'unico tratto in cui la parete rocciosa a sinistra poteva essere scalata. «Non sparare se vedi qualcuno venire da quella parte», disse Robert Jordan a Primitivo. «Fa rotolare una pietra piccola e fa un segnale con il tuo fucile in questo modo». E sollevò il fucile e lo tenne sopra la testa quasi a proteggerla. «Così, per indicare il numero». E lo sollevò e l'abbassò. «Se sono appiedati, tieni la bocca del fucile inclinata verso terra. Così. Non sparare da qui finché non senti la macchina». Primitivo sollevò il fucile. «Posso tirare una granata?» «No, finché la macchina non avrà aperto il fuoco. Può darsi che i cavalleggeri vengano a cercare il loro compagno e tuttavia non cerchino di passare di qua. Può darsi che seguano le piste di Pablo. Dovremmo evitare assolutamente di combattere. Va su ora». «Me voi», disse Primitivo e si arrampicò sulle alte rocce con la sua carabina. «Tu, Agustin», disse Robert Jordan, «cosa sai del fucile mitragliatore?» Agustin si accovacciò, alto, nero, le gote tonde, gli occhi infossati, la bocca sottile e le grosse mani sciupate dal lavoro. «Pues, caricarlo, prendere la mira, sparare, nient'altro. Non devi sparare finché non sono a meno di 50 metri, e soltanto quando sei certo che stanno per avviarsi per il passo che conduce alla caverna», disse Robert Jordan. «Sì, quanto sarebbe come distanza? Fino a quella roccia? Se c'è un ufficiale, spara lui per primo. Quindi sposta il fucile sugli altri. Spostalo molto piano. Basta solo un piccolo movimento. Insegnerò a Fernando come fermarlo. Tienilo forte, in modo che non salti. E prendi la mira con attenzione e non sparare più di 6 colpi alla volta, se ti riesce. Sparando, il fucile si sposta in alto e ogni volta spara a un solo uomo e poi sposta su di un altro. Se un uomo è a cavallo, punta alla pancia». «Credo che potremmo fare un massacro, menuda matanza», disse Agustin. «Ma io spero che non vengano. Se non fosse per il tuo ponte potremmo fare un massacro qui e poi andarcene. Non servirebbe a niente. Non risponderebbe a nessuno scopo. L'impresa del ponte fa parte di un piano per vincere la guerra. Questo non sarebbe nulla, sarebbe un piccolo episodio, un nulla. Che va a nulla? Ogni fascista morto è un fascista di meno. Sì, ma con questo affare del ponte possiamo prendere Segovia, la capitale della provincia. Pensa a questo, sarebbe la prima che prendiamo. Arrivò Anselmo con l'ascia. «Volete altri rami?» chiese. «A me sembra che sia ben nascosto». «Non occorrono altri rami», disse Robert Jordan. «Due alberi piccoli da poter piantare qui e là per dare un aspetto più naturale alla postazione. Va bene, li porterò. Tagliali bene, in modo che non si vedano i ceppi che rimangono». Robert Jordan sentì il rumore dell'ascia nel bosco dietro di lui. Guardò in alto, dove era primitivo sulle rocce, e guardò in basso verso i pini al di là della radura. Il corvo era ancora lì. Sentì quindi il primo alto, intermittente ronzio di un aeroplano. Guardò in su e lo vide alto, minuto e argenteo nel sole, e non sembrava quasi che si muovesse nel cielo. L'aeroplano era fuori di vista ora, sopra le montagne, ma si udiva ancora il rombo dei motori. Come volse gli occhi da quella parte, Robert Jordan vide il corvo volar via. Volava deciso, attraverso gli alberi senza gracchiare. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.